Cazzo, non mi sono trovato soldi di cazzo in tasca oggi per mettere la benzina all'aereo, se non è andato. Il problema era, caspita, fra, ma per l'aereo non ce l'avevi i soldi, però i soldi per la benzina dell'elicottero, cioè c'è sempre il piano dell'elicottero, potevi andare. L'elicottero, ma adesso me lo vedo. Troppo casino, vado a terra in Chile, in Vaticano, no? Ne vedi che ti volendo? Cosa, fra? Ne vedi che ti volando? E poi non sembra brutto arrivare in elicottero di lì per andare a trovare il Papa. Gloria, chissà se era vero che ho visto che era Iammuccio, comunque. Perché si diceva così, no? Così si diceva, però secondo me si sono scordati a fare tutti questi video e queste cose. Secondo me c'è qualcosa che puzza, caro Franco, perché è troppo strano, Sì, ma da voi va cosa? Perché fare una cosa del genere? Perché? Anche della se qualcuno lo voleva far fuori. Fra, diversamente non può essere. Far fuori cosa? Poi senti i giornalisti, dice, prima di morire adesso ha chiamato anche altra gente, c'è andata la sorella, la cugina, c'è andato io. Secondo me c'è la cosa tutti. I giornalisti, poverini, sono i buoni, io i giornalisti non vi credo più. Giornalista è la categoria più bugiarda che c'è. Esatto. Quindi al giornalista non ci credo più. Il giornalista può dire tutto quello che vuole. In effetti è così. Sì, perché non bisogna più crederli a quei quattro buffoni. Perché ormai i giornalisti sono diventati buffoni, sono diventati una massa di miserabili dallo primo fino all'ultimo. Quindi non bisogna crederli, e bisogna, mi stava un po' simpatico del Dibbio, la verità, a me, perché io quando c'era lo seguivo, però anche lui è diventato un signore, capito? Non hai capito che gli hanno chiuso la bocca a quello, gli hanno chiuso la bocca, e se no a fura. Ma chi ha del Debbio? E gli ha chiuso, mi danno serrata la bocca, e se vico subito che mi danno serrata, anche tutto quel poi si è mollato. Ma come fa cosa mi fra? Dal Debbio veniva un giuro me. E tu dici che hanno chiuso la bocca a quello? Oh, può essere mia, chi era dove è venuto con me stravagante, e c'è qualche vaggio che si ho. C'è una cosa, 80 metri mi fende un bugio di nido. Tu dici che hanno chiuso la bocca, già la verità già era un po' invadente, mi stava diventando un po' stufante, infatti io l'ho mollato, Io ho deciso di, quando c'è il suo programma, di girare il canale. E tu lo seguivo, ed era anche una persona che mi stava molto simpatica. Capo, però a quello gli hanno chiuso la bocca perché stava parlando un po' troppo di cose che non doveva magari parlare, perché a coso non gliela chiudono la bocca, mi vedrai come chiudono la bocca a quello, quell'altro giornalista che sta facendo cosa per le case, come si chiama quello? A Giordano, quello lì lo ammazzano. A Giordano voglio vedere cosa vi fate, mi ha mente a dire cosa vi fate, a chi subito gli saranno nella bocca, e beh punto. A Giordano non ammazzare secondo me. Troppo sto parlando, troppo parlantina in confronto a gente che non deve toccare, capito? Sì, è vero. A persone, sì, troppo di spicco, quindi... è vero, anche a lui vedrai che chiuderanno la bocca. Ma purtroppo è così. Ma speriamo, però Hai capito? Coso è venuto in Italia a diciamo, lo presidente degli Stati Uniti e il suo guasco dell'Ucraina. Zelensky e Trump. Ma adesso non ha detto Trump, eh? Ma c'è la Grecia e quindi Nira, se no sono cavoli sui. Allora, se non si deve venire a vero, chi se non deve venire a vero, chi sono miserabile, sono qua qualcosa miserabile. Ma la vedete che Trump ne lo fa sbagliare. A che la cosa se può animare, a che gli sono come là. Chi so, vedrà cosa ne fa di Trump. Trump a quello lo prende, gli mette il silenzio assoluto. Infatti fanno così e fanno. Ma tutti e due o sono giunti o devono venire. Non credo che vengano assieme. Non credo che vengano assieme, fra. Però quelli lo stesso, quello lo ammazzano. Invece lo russo non si vede. Il russo non ha bisogno di venire. Il russo è già in Italia, non ti preoccupare. Chi si muove? Chi sono in Italia? Chi sono via? Vabbè, vediamo. Ma vinto adesso. Diciamo come era io. Ne ho fatto 44, prima fu un farmaco. Ah, ma in niente dici? Ogni sera quando sono in casa a Baidu. Ma 19.000 euro si è cagato. Ma ti puoi pigliare questi 44.000 euro? A me già la seconda offerta era 32, me ne è andato. Tu vedi l'idea mia, alla terza idea. Aspetta un attimo. Cari dai. Invece ha cambiato anche il suo pacco e nel suo c'erano 70.000 euro, invece l'ha pigliato per 0 euro. Ah, 0 euro lui ha pigliato. Dai, ma altro deficiente chissà, lo mette magari a 230, 30 zecchine, l'ho caduto, fammelo bonifico e sono a pochi bussi. Sapete a Dio che c'è un busso di chissà, la sola, che se 44 è stata mia buccia a camminare, non c'è. Come ne ho potuto nulla. Fare che mi piace, però io mi si posso mica. Mi si posso. E andate, mi tenuta roba, e andate, avevo occupato per questa campagnetta. No, io me l'avevo impegnato. Un pezzo in campagna, no? Un pezzo in campagnetta, io. Sì, 10-20 mila euro. Mi viene a casa, non si è. E allora, cazzo, con un cammino che va. No, è vero, giù, mi viene a casa, avrà. È vero, vicino a casa, io che in periferia santo lo so vendente. Te l'ho venduto un pezzo di roca. E allora, aspetta, è subito il cemento. Aspetta mia il cemento, e lo guardo più. Avessi preso 20 euro per la campagna, 10 mila, ma un cemento te ne fa 6, altri 10 mila. Non c'è che la gente burati. Esatto. Quando sono freddo dall'aria così, era grande. Però, caspita, a volte, l'altra volta ho visto c'era quella tipa che gli hanno dato il coso delle regioni, ha indovinato la regione al primo colpo, porca miseria, lì si fucciona, eh. Quella è fortuna. Le regioni non è facile quello lì, perché sono tante le regioni. Purtroppo, però la gente, loro stanno sempre vicino alle loro regioni. Esci dalla regione 2 a Buro, no? Perché non penso che ti trovi nella regione ne sei tu. Non lo sappiamo, non si sa chi so, io chi so un poco così me. Sono già una fortuna a quei giochi, fra, non ti preoccupare, che poi dipende anche dal dottore, se ti vuole aiutare, se non ti vuole aiutare. Visto l'altra sera c'era quella tipa che aveva 4 figli e l'ha voluto da Giordani, l'ha pigliato un banco badalese 50.000 euro. Vabbè, la ragione che tu c'hai, quello lì è mezzo bastardello, sembra, anche io che piglia pure a tranello. E allora, vabbè, è un gioco. No, e tolgo anche De Martino, quello che lo conduce, già è simpatico. No, lui, vabbè, lui è solo un conduttore, però secondo me lui non sa niente, lui non ne sa cosa ci sono dentro i pacchi e quali pacchi sono. No, lui non lo sa, lo sa solo il dottore, basta, non ne sa lui, no, di queste cose. Appunto. Anche se uno va via baidato durante. Perché, caspita, è bello, è un bel gioco, solo che proprio tranelle e biassani. Vabbè, dove si vincono soldi fra i usimi. Noi si vince di là, purtroppo è così, non c'è niente da fare. Fanno queste cose e hanno il, ed è giusto che sia, che ci siano anche i, come si dice, i tranelli. Beh, sicuramente non è un gioco truccato, perché i pacchi già sono sigillati, già sono tutti lì, quindi dai, è un gioco pulito. Sì, quello sì. Anche se si dice la notizia, attacca ogni tanto. Vabbè. Allora, a proposito, lo sai che ha scoperto perché non si vede il monitor nel UEU della cable? Cosa è successo? Ho detto perché non si vede in un monitor. Non è la pellicola, sono i LED. C'ha quattro LED dentro, dietro. E quei LED si stanno esaurendo e vogliono cambiarli. Purtroppo, dove viene a cambiarli? Una gazzada. Solo che non so che LED comprerà. Lo devi togliere uno e vederlo fra. Capo, quattro ne ho. L'ho tutto smontato. L'ho visto in coso. In YouTube. Questo stava cambiando i LED della. Ha detto che di YouTube, ma ha detto di. Questi sono i LED, se cambiano, l'ha sostituiti. Ha girato, ha piazzato un monitor d'orra, ma è una cavolata mi piazzarle e staccarlo e a riassemblarlo, è una cavolata, l'ha fatto tutto quanto, capita quanto si vedia bene, ha detto ero forte, l'ha giubilato, l'ha smontato, ha giocato mentre ha fatto edo tutto quanto, segno bassegno, oh perfetto. Smontate le piazzate. Di installare uno e vedi che LED ci vogliono. Sì. Bisogna guardare, perché non so, a meno che se non voglio su internet scrivo che devi col monitor. Eppure. Ma altrimenti non basta lo smooth che te lo dissaldi uno, te lo segni, qual è tutto il positivo e il negativo, lo segni e lo porti anche da Fusano e dici ma questi LED dove li posso trovare? Ma la lungo la pure anche con una lente di ingrandimento c'è scritta qualcosa, glieli metti, ma anche se glieli adatti, cosa ne affutti? Sì, ma però siccome sono dei LED particolari, sono LED che fanno, si fanno bianchi e blu, si fanno, capito? Tu nel monitor, tu quando vuoi mettere i bianchi, schiacci, vai sul display e gli cambi, capito? Cambi il colore. Cioè, quei due colori. Sì. E allora devi informarti che LED sono. Vabbè, è un peccato. Sì, ma già me la faccio. L'ho giusto. così ne ho due. Al limite una me la prendo da buio, dai la raggio una me la prendo. Allora, te la prendi e ciccia. Io ho preso un altro di quegli Alinco. Adesso domani se non voglio passo un attimo da Brico e mi prendo le barre, quelle barre filettate fini e mi faccio un altro antennino, guarda quella che ho messo al ricevitore, ho un'altra calatta, brusa e bassa, però lo faccio solo per le V, ne me lo tengo in ascolto delle V. Sì. Che poi, se voglio, compro il cavetto e attacco un monitor a parte. Prendo un tablet o un monitor di computer e me lo fa vedere lì tutto quanto quello della radio, tutte le frequenze, capito? Esatto, e allora mi ha fatto uscire, beh dovrà. Ti compro un monitor, anche un monitor quindi 50 euro e te lo boni. Un monitor piccolo ci vuole, un monitor piccolo, perché grande ne ho uno, ne ho, ma non andava bene. No, un piccolo te ne prendi uno piccolino e te lo colleghi lì, è anche bello da vedere la schermata. Capo, me ne hanno dato uno l'altro giorno, il computer, me ne hanno dato. No, ma dimmo che ne va bene. L'ho messo lì adesso, ha girato, se vuoi che faccio un volume quasi a venne mare. Sì. Io l'avrei usato, capita, in ascolto, così, con un monitor normale. E pian piano avrei cercato il LED. Capo. No, oggi giocando così, l'ho messo... è blu, però è... Sicuramente è andato nella lista del bianco, però qua il bianco deve essere bruciato e si vede un po' la frequenza, si vede, insomma, già si vede non bene bene, però si vede. Ma se sono i LED già è una stupidaggine cambiarli. Io uso blu. Ok, non so come FM, sì. Capita che non si vede il suo gozzo. E comunque è così, fra. No, sono contento di queste due radio, vai. Già te l'ho detto che se lo trovavo un altro Alinco lo prendevo. E poi mi è capitato, ho detto, c'ho anche un ricevitore, dammi, regali tutto. Capo. Sì. No, è fatto bene. Io ne ho visto uno su compro e vendo, uguale al mio, ne ho visto, e c'aveva anche due microfoni, c'aveva uno con la tastiera e l'altro normale come il mio. E da poi sotto a Giuligidu, e va via la radio defettosa, che non memorizzava le frequenze. Sappi che dopo 200 euro a te. Qua c'è una batteria tampone, bisogna cambiare i bumi. Non lo so se c'è batteria tampone, se cosa c'ha, però infatti lo sta pagando non 200 euro, ma quasi. Si magna. Perché mi ha detto che c'erano due microfoni, non va bene. Ho detto no. Ve la posso comprare la radio uguale, se da voi cosa me ne posso? Nuda, e tu vai di là e tu vai a provare con un pugno di sabbia. Allora, andare così, andare, poi usare. E io vorrei più barbicofer perché sto cercando un microfono per questa radio, perché in questa non ne ho, ma io la ciappo. O se no, mi pare che lo dico a coso, a qualcuno me lo posso cablare, me lo posso, naggiuno di Icon, naggiù, e me lo posso cablare in opera e raggiungere. Quello te lo cablo anche io. Con tutti i comandi. Allora, sì, con tutti i comandi. Prova tua mano a Luca, vabbè se trova in internet, con tutti i comandi, è certo. Quasi te lo do, se avevo capito, perché è della ICO che c'avevo prima. Però cablato va bene, perché è sempre autopin. Sì. No, ma vengo una sera, magari se ti va e lo facciamo così lo vedi. Sì. Nel manuale c'è il coso per cablare il microfono, però mi sono messo ma non lo capisco come tutto quello che non c'è scritto, proprio colori, queste cose qua. Devi provare col tester, in genere, guarda, fra i si chiama up e down, è il filo verde, è il filo verde e il filo blu, capito, nei microfoni ICOM, quello è per i canali, capito, per cambiare i canali. Poi il bianco, quello è il microfono, poi c'ha il PTT e basta, dove c'è lo squelch, ma gli vanno cablati 5 fili. Non lo so, perché è 8 fili lui, non lo so com'è. Questo è cablato già ICOM, però col jack è normale, non è con la spinetta. Mentre tu hai la spinetta o hai l'autopin? Il Kenwood è a spinetta. Ok, il Kenwood è cavo l'anno, dai. Esatto, quello normale che c'hai anche tu nel coso, nel 450. Allora hai l'autopin normale, non lo sto parlando come io, per esempio nella Linko ho il classico cavo LAN, capito, quello cavo del computer, il cavo LAN. Ah, boh, non so cosa. No, io ti sto parlando microfono col check con la spinetta RG, capito? Mentre questo microfono che ho io è quello normale, il connettore normale che attacchi per il microfono. Sì, è una fesseria a farlo, fra. Qualche giorno vengo e te lo cablo, così non devi stare a scollegare niente, né radio né nulla. Vengo e ti lo forzo un attimino. Cappa. Poi, di questi già ce li ho. Gli spinotti con la macchinetta per farli. Sì. Ok, capo. Ecco qua. Ok, sì, sono qua. Sono in 9, stavo guardando con la spinetta, sì, già ce li ho. Un altro, 2, 4, 6, 8, 9. A voglia. Roba, capito, gna, zinzo, la maledetta. Ecco, prima mi facevo i cavetti per internet. Con le spinette lì, insomma. Ma cos'è una cosa? No, non va bene. Che cosa vuoi che va? Prendere un pezzo di quello di internet e poi però non andare bene, che tanto devo fare il collegamento dentro al microfono da bui. Va bene, mio. Però quelli lì non c'hanno la massa, capito? Hanno fine di massa. Cioè è il numero uno la massa. Però non è calza, è filo normale, non vabbè. Cappa, no, non sai cos'è. Fagli uno spezzone, stavo dicendo. Io dal MB più 4 ce l'ho così, per esempio, il filo cavo del microfono, tolto il connettore a quattro poli e gli ho messo un mammut e ho i fili collegati così, mi puoi attaccare la radio. Vabbè, no, per altro, perché il microfono non è che costa assai, costa 20 euro, 25 euro massimo. Fra, ma tu in quella radio ti metti un microfono a tavolo. Cosa di buono, ovvio. Cosa gli vuoi cablare lì? Dipende, fra. Con la radio esce bene anche l'MB più 4, quando usi 60, gli avrei messo 60, l'avevo provato. Sì, ma ci vuole il cavetto per fare quello. No, fra, se con 60 prendi, se hai la femmina, poi sono tre fili, intanto alla fine a te ti serve portante, microfono e massa, basta, non ti servi altro, poi cambi dalla radio. Figlia, ma alla radio l'attacco è sempre RG, il problema è che poi dall'MC60 alla radio, a me ok, non si cabla un cavetto da 8 fili, si cabla direttamente, ma no, ha messo l'MC60 alla radio. Fratto, ce l'hai cambiato Kenwood intanto, ed è il numero 7 è la massa, il numero 1 è il microfono, il numero 1 è il PTT, boh, non c'è da sbagliare, nel Kenwood è così, e prendi lo schema della radio e fai, per esempio io ho la massa all'1, il PTT al 5 e il microfono al 3, capito? Mi ho messo quello, dopo quando devo fare qualche cambiamento c'ho il coso, lo faccio dallo schermo della radio, mi segui, quindi guardi le intestazioni, quelle che sono nel manuale e devi cablare il numero 4, per esempio il numero 1, il numero 4 e il numero 8 e cabli solo tre fili. Sì, ma c'è anche il coso, c'è anche l'altro dei Vols, quello lì che se no mi tocca pure le batterie. Quello se si cerca 8 volt, ce l'ha la radio l'alimentazione 8 volt. Cosa saranno? Sì, e li cambia anche 6 nel numero 5 del coso, del 60. Vabbè. Io questi sono per me tabù. No, è facile, non ti preoccupare, è facile. Non ti preoccupare, sa che è facile, Franco, non ci sono problemi. Intanto anche la radio quella esce con l'alimentazione, cioè nello spinotto del microfono, giusto? Penso di sì che ci abbia anche. Perché sono 8, insomma. Allora, esce a vedere. Adesso li conto. Sì, 8 sono, 8. Sì, 8 sono. 8. E vabbè. Poi vediamo, perché questo va bene a tutti e due, va bene perché sono uguali. A chi doveva giurito di mandare un microfono, dice non ne ho. Ma tu hai anche il più 5, giusto? Sì, io ho anche il più 5. Vedi, il più 5 è più va meglio per quella radio lì, perché hai anche la regolazione dei toni. Vabbè, però dei toni non è che vabbè, ti fa la radio migliore, ti fa. Ma scherzi, io gli avrei cablato il più 5, giusto avrei fatto lo spezzone quando l'avevo voluto trattare, tramo la spezzone io, oppure non avrei voluto usare un'altra radio, l'avrei tolto e l'avrei. Perché quello da tavolo è più comodo, pure la radio è molto più bella, fra. quella radio è molto più bella. Non la vuoi sentire col microfono originale? Adesso te la faccio sentire, guarda.